Come giudica questo scivolone oggi della maggioranza? È qualcosa di più o un incidente di percorso? Ma no, guardi, io voglio essere onesto, potrei strumentalizzarlo dal punto di vista politico, ma gli scivoloni finanziari ci stanno, ci sono sempre stati, quindi non lo drammatizzerei più di tanto. C'è un fatto comunque, che questa maggioranza ha tantissime discrepanze di natura politica. Mi pare che la collega Franca Rame l'abbia detto anche ingenuamente ma sinceramente. Non sono d'accordo su tante cose, però per far star sul governo, legacy, per tenermi la poltrona perché non possiamo andare a votare, allora voto a favore del governo. L'unico collante che hanno è la paura delle elezioni. Al momento del voto domani, secondo lei, ci potrebbero essere sorprese? Ma guardi, se ci fossero sarebbe veramente una sorpresa, perché normalmente io ho già vissuto crisi finanziarie che hanno fatto anche cadere i governi, ma tutto viene preceduto e accompagnato da forti polemiche in aula, da voti dissonanti che oggi non si vedono. C'è stato qualche incidente su qualche punto, ma non così politicamente significativo, quindi sarebbe veramente una sorpresa. In ogni caso credo che la vera finanziaria verrà fatta alla Camera, quindi dobbiamo rimandare tutti i giudizi a quando tornerà al Senato prima di Natale.